Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione di Italia in controluce. Oggi vi portiamo in un posto veramente speciale, si chiama Dinamo Camp, ci racconta questa storia Maria Luisa Pezzali. Sono stufo che mi dicano che sono un bambino speciale. E allora chiudo gli occhi e le punture fanno meno male. E io sono di nuovo lì. Perché lì potevo sentirmi uguale agli altri bambini ed essere felice. E le mie paure le vedevo piccole piccole. E scoprivo che ero molto bravo a fare delle cose vere che non avevo mai provato prima. Umberto è uno dei bambini ospitati al Dinamo Camp, un camp di terapia ricreativa, primo in Italia, che accoglie gratuitamente per periodi di vacanza bambini tra i 7 e i 17 anni affetti da patologie gravi e croniche, oncoematologiche e neurologiche principalmente. Un luogo dove i bambini malati tornano ad essere solo bambini. Equitazione, arrampicata, percorsi avventura, nuoto, tiro con l'arco, scuola di circo, fotografia, teatro, arte. Al Dinamo Camp la cura è divertirsi, conferma Michela. Dinamo Camp mi viene in mente tutte le cose belle, un bel ricordo, perché là mi sono divertita tantissimo. E proprio Dinamo, energia, mi viene proprio in mente, diciamo, la felicità. A Dinamo Camp non c'è nessuno che prende in giro, si va d'accordo con tutti, fa capire un sacco di cose, insegna un sacco di cose. Dopo un po' di tempo mi ero proprio sguardata quasi dai miei genitori, cioè un po' mi mancavano, però non così tanto. Quest'anno la notte non dormivamo, ci addormentavamo alle 2 alle 3 perché dovevamo chiacchierare su quello che avevamo fatto. Il resto si è diviso in due mondi, uno è Dinamo Camp e l'altro è il resto. Aperto nel 2007 all'interno dell'oasi WWF di Limestre, provincia di Pistoia, Dinamo Camp ha ospitato fino ad ora 2.500 bambini, 1.000 solo nel 2011. Provengono da tutta Italia e dall'estero, Germania, Australia, Belgio, Canada, Francia, Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Stati Uniti, Iraq, Giordania, Emirati Arabi, Siria, Israele e Palestina. È una realtà che collabora con oltre un centinaio tra ospedali, associazioni di patologia e associazioni di genitori. Trascorrere un periodo di vacanza qui rende i bambini più sicuri, permette loro di coltivare autostima e indipendenza, coltiva il coraggio e la forza di cui hanno bisogno per affrontare le gravi malattie di cui soffrono. Serena Porcari, vicepresidente operativo di Fondazione Dinamo. Sono bambini che hanno diversi gradi, no, di impatto della malattia. Alcuni sono, diciamo, esteticamente non hanno nessun segno, no? Quindi hanno semplicemente la necessità giornaliera di prendere alcune medicine o di fare alcune, diciamo, infusioni, no, via endovenosa. E questa cosa di solito succede e noi la governiamo col nostro centro medico, col nostro personale medico, in modo tale che i bambini abbiano poi tutto il tempo per svolgere la loro attività. Quando i ragazzi si trovano davanti a un'attività, quindi a seconda del bisogno del più debole, per esempio se c'è un bambino in quel gruppo di attività che è sulla sedia a rotelle, facciamo in modo che l'attività sia accessibile a tutti. E quindi, per esempio, nel caso dell'arrampicata abbiamo sviluppato alcune tecnologie sia di imbragamento che anche di risalita, in modo tale che i bambini, anche senza l'uso delle gambe, possano comunque fare l'esperienza di salire, no? Quindi da un lato c'è la sfida che viene presentata al ragazzo e dall'altro lato c'è lo sforzo del nostro personale di adattare l'attività al bisogno del più debole. È questo insieme delle due cose che rende un po' il camp speciale, no? Per cui il risultato finale è che tutti i bambini possono fare tutto e che di fatto alla fine delle attività ci si siede intorno in cerchio e si riflette sui successi di ciascuno su quell'attività. Quindi senza nessuna competizione. Abbiamo avuto una bambina con un tumore al cervello importante e quando è venuta da noi ha deciso che, insomma, doveva alzarsi dalla sedia a rotelle e per molte volte ha fatto l'arrampicata senza supporto, diciamo, di imbragatura cioè soltanto l'imbragatura classica, ma senza quella che appunto avrebbe retto le gambe, e questo poi insomma le ha portato un tale beneficio che si è portato avanti tutto l'anno, no? Questa sua capacità di aver superato questo limite. Quindi quando poi c'è una malattia, oppure ragazzini che devono prendere queste medicine tutte le mattine, che imparano da soli a iniettarsi, e questo per chi ha una malattia cronica è il primo passo verso l'autonomia, no? Ecco, queste sono le cose speciali che si vedono al camp. Dynamo Camp, primo in Europa, fa parte degli All in the Wall Camps creati in tutto il mondo a partire dal 1988 da Paul Newman e dalla sua fondazione. Vincenzo Manes, presidente di Fondazione Dynamo. L'incontro è venuto per caso, perché è venuto tramite la conoscenza di una persona che aveva avuto un figlio ospitato in uno dei camp, il primo camp di Paul Newman, quello nei Connecticut, di Hole in the Wall. Da lì, da quella serata a cena e racconto di questa storia, da parte mia, così, il colpo di fulmine, no? su questa iniziativa, e l'idea di poterla realizzare in Italia. Abbiamo dovuto approcciare tutta l'organizzazione, quindi passare tutti, diciamo, i test per essere ammessi in questa organizzazione, fin tanto che, diciamo, il test principale è stata la conoscenza mia diretta con Paul Newman una sera a casa sua, che devo dire è stata una grande e bella esperienza. E il bilancio di questi primi 5 anni è straordinario, ci dice ancora Vincenzo Manes. Bilancio straordinario da tutti i punti di vista. Il primo punto di vista è quello che dico io sempre, combattiamo per un diritto alla felicità, in questo caso diritto alla felicità, ma questo è un bilancio, diciamo, incredibilmente buono, perché oggi abbiamo raggiunto credo 2500 bambini e li ospitiamo dalla maggior parte dall'Italia, da tutta Italia, li ospitiamo dalla Germania, grande soddisfazione questa in questo caso, insomma, una volta tanto, no? Siamo noi che diamo molto a loro in questo caso, e poi ospitiamo bambini che arrivano dalla Giordania, arrivano dall'Iraq e arrivano dagli Emirati Arabi, quindi grande, grande soddisfazione. E poi 500 e passa volontari all'anno, e poi una cultura ormai, diciamo, di approccio a queste cose che ormai si sta diffondendo, viene grandemente apprezzata, e quindi insomma tante cose, un bilancio molto soddisfacente. Questa è Radio Dynamo. Ciao, sono DJ Magi e questa è la mia ricetta d'Italia. Orecchiette con le cime di rapa, Puglia. Dall'anno scorso al camp c'è anche la radio, Radio Dynamo, un progetto che attraverso una web radio porta i programmi di terapia ricreativa di Dynamo Camp anche nelle corsie degli ospedali. Elena Giorgini. Radio Dynamo esiste all'interno del Dynamo Camp, però per poter venire al Dynamo Camp i bambini devono avere una condizione sanitaria stabile. Quando questo non è possibile è la radio che va a trovarli negli ospedali. Ogni volta che andiamo in un ospedale succede qualcosa di particolare. Innanzitutto i bambini, ogni volta che sono davanti ai microfoni di Radio Dynamo, si inventano un nome da DJ, e quindi è molto curioso ascoltare chi vogliono essere, tipo, non so, DJ Ragnatela. Sono molto gettonati i calciatori, ovviamente, per i maschi, sono molto gettonati invece per le femmine tutti i nomi delle Barbie, Winx, eccetera eccetera. Quindi questa è la cosa più divertente. Per quelle 2 ore loro fingono di essere dei DJ, giocano a fare la radio e si immaginano di essere un DJ con un nome particolare. Quindi questo è sempre un feedback molto importante per noi, perché per quell'oretta, quelle 2 ore, loro si dimenticano un attimo l'ospedale e giocano con noi alla radio. Stiamo toccando 6 grandi ospedali italiani. In ogni tappa ospitiamo personaggi famosi. E tutte le volte che chiediamo loro com'è andata, vedi proprio una magia particolare. Avete ascoltato la seconda edizione di Italia in Controluce, questa puntata come tutte le altre è scaricabile in podcast. Torniamo domani alle 6:30 con nuovi reportage su Radio 24.